Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un regista italiano che ha presentato un progetto speciale al Festival di Locarno. È nato a Napoli nel 1959. Inizia la sua carriera artistica nel teatro con Faust o La quadratura del cerchio nel 1976. Nel dicembre del 77 fonda il gruppo Nobili di Rosa, che poi diventa Falso Movimento e Teatri Uniti. L'esordio alla regia cinematografica è del 1980 con un corto. Nel 1992 si rivela al grande pubblico con il suo primo lungometraggio, Morte di un matematico napoletano, gran premio della giuria alla Mostra di Venezia. 3 anni dopo realizza il suo secondo film, L'amore molesto, in concorso al Festival di Cannes, vincitore del David di Donatello. Continua a occuparsi di teatro e di cinema. Nel 2010 esce nelle sale italiane Noi credevamo, ispirato all'omonimo romanzo di Anna Banti. Nel 2011 mette in scena Le operette morali di Giacomo Leopardi e riceve il premio leopardiano La Ginestra. A Venezia 2014 presenta il film dedicato alla vita di Giacomo Leopardi, Il giovane favoloso, film che inaspettatamente diventa anche uno dei successi al box office della stagione. Nel 2015 realizza per Expo il corto Pastorale Cilentana, affresco di un paesaggio agricolo della metà del XIV secolo visto attraverso gli occhi del piccolo pastore Nino. Il corto, che viene proiettato all'interno del Padiglione Zero, ha avuto una parentesi cinematografica al Festival di Locarno, dove è stato presentato dalla sceneggiatrice Ippolita Di Maio e dal regista, la nostra voce in scena, Mario Martone. La Palomar ha vinto la gara per la realizzazione di questo cortometraggio. E quindi Carlo Degli Esposti mi ha chiamato per dirmi insomma, appunto, che contava su di me per la realizzazione del corto. Il committente, l'ideatore del Padiglione Zero è Davide Rampello, che appunto ha dato forma a tutto il padiglione. Il padiglione era composto di una grande scenografia che appunto rappresenta il teatro della memoria, quindi ha un... Poi ci sono diversi elementi che si combinano tra scenografia e proiezione, e appunto aveva immaginato questo film, immaginato proprio come una video installazione, come una parete in movimento, ecco. Tant'è vero che all'Expo, per chi lo vede all'Expo, ci sono queste 4 porte che... e anche questi tagli diagonali. Quello che mi dicono, che mi fa molto piacere, è che questo padiglione, no, in cui questo filmato è, come dire, lo si attraversa, per cui insomma, in un certo senso sarebbe destinato ad essere visto per pochi secondi, minuti, da chi passa, mentre invece c'è tante persone si siedono per terra e lo vedono tutto. Questo bimbo, che è il protagonista di questa giornata che avete seguito, è stata un po' l'idea che accompagna lo spettatore a scoprire un tempo e un luogo. Sì, allora la sceneggiatura è l'idea della giornata e così via è di Ippolita, che ha scritto la sceneggiatura, e quindi che ci fosse un bambino era uno stimolo, no, di Rampello. Sì. E quindi c'era l'idea che fosse un paesaggio agrario, un rapporto tra l'uomo e la natura, l'uomo e l'agricoltura, visto con lo sguardo di un bambino o di dei bambini, nel senso con l'ingenuità, anche con la purezza di sguardo. E da lì è venuta l'idea di questo piccolo pastore di organizzare la narrazione sull'arco di una giornata, cercando di dare conto però sia di una varietà geografica di paesaggio che di una serie di, appunto, la caccia, la pesca, l'agricoltura, insomma, di cercare di mostrare l'uomo alle origini del suo rapporto poi con la terra. Oh, basato su fonti storiche del tipo la vita nel Medioevo, proprio quelle classiche dei grandi storici medievali, sulle abitudini, gli usi, i costumi, la vita, l'agricoltura nel Medioevo. Diciamo, queste sono state le immagini, molte ce le avevamo un po' negli occhi e nel cuore dal tempo di Noi Credevamo, e poi certo uno c'ha in testa tanta pittura medievale, no? Con grandi campiture romantiche, Ippolita in testa, che è poeta storica d'arte, quindi geometrici e definiti, piuttosto che i paesaggi fiamminghi del 400, insomma poi ci sono tante cose che vanno in circolo e che uno immagina mentre scrive, mentre descrive un paesaggio, e poi dopo c'è il regista che invece fa magari tutta un'altra cosa e poi è quella. No, anche voglio dire l'idea di avere comunque un rapporto lieve con la storicizzazione, infatti non è un medioevo come dire calcato, no? Cioè in realtà parla la terra, parla, cioè c'è un po' una sospensione di tutto, un po' una sospensione del tempo, del... anche considerate per esempio il viaggio che fa il pastore. Cioè, chiaramente è un viaggio, se vogliamo, irreale, no? Perché comunque è chiaro che sono tutti luoghi così diversi e lontani che in una giornata, diciamo, non si riuscirebbe. Però, appunto, era un po' andare a seguire più un senso ellittico, poetico, insomma, cioè non tanto stare su un realismo... cioè lasciarsi portare un po' dal vento, ecco, non ci sono messaggi, è cinema, è così, quindi è certamente c'è una dimensione contemplativa, come mi è capitato di dire oggi, e comunque sicuramente un lavoro, come dire, gemmato dal lungo attraversamento, prima non ne credevamo, il territorio cilentano, ma anche poi col Giovane Favoloso di Leopardi, quindi di un rapporto con la natura, con un abbandono, no? che quindi, però insomma, ripeto, non c'è, ecco, io tra l'altro non sono, come dire, non è che abbia, cioè non sono il tipo, cioè sono molto cittadino, sono un animale metropolitano, quindi non è che sono, però mi piace guardare, mi piace abbandonarmi, e mi piace abbandonarmi col cinema, insomma, no? A che cosa, perché poi il rapporto con la macchina da presa è uno strumento, cioè tu sei tu e ciò che viene filmato è un rapporto, cioè non è una, per cui è chiaro che tu cominci a dialogare con quello che hai davanti, e quello che hai davanti anche ti spinge, ti guida, ti no? Il Giovane Favoloso è stato un film che, diciamo, ha avuto tanto un pubblico veramente trasversale, cioè dai ragazzi più giovani fino alle persone anziane, in tanti sono tornati a cinema perché, per Leopardi, no? Perché naturalmente l'amore per Leopardi e così via. E questo è stato bello, sì, il film viene visto, oggi continua a essere visto ancora da ragazzi, dalle scuole, nelle scuole, ma anche da ragazzi al di là delle scuole, ecco, c'è un... non lo so, questo insomma secondo me dimostra che c'è spazio per il per cinema anche al di fuori, insomma, delle dimensioni più, no? Così, che uno immagina, non sono quelle destinate al grande pubblico, insomma, mi sembra che c'è un desiderio di comunque, insomma, di ancora di vivere con il cinema, ecco, ancora, no? Dopo che sembrava, no, la televisione, però invece il cinema sempre risale, sempre rivive, si trasforma, oggi le serie, no? No? Che comunque ancora, cosa significa? Significa ancora il cinema che entra nella televisione e la modifica e si rimpone come cinema, cioè, quindi vuol dire che, insomma... Dato che l'andamento e le usanze e gli avvenimenti e i luoghi di questa mia vita sono ancora infantili, io tengo afferrati con ambe le mani questi ultimi avanzi e queste ombre di quel benedetto e beato tempo dove io sperava e sognava la felicità, e sperando e sognando la godeva. Ed è passato, ne tornerà mai più, certo mai più, vedendo con eccessivo terrore che insieme con la fanciullezza è finito il mondo e la vita per me e per tutti quelli che pensano e sentono. sicché non vivono fino alla morte, se non quei molti che restano fanciulli tutta la vita. Questo lungo viaggio non si è formato come progetto all'inizio, capito? Quindi no, cioè io non pensavo affatto nel 2004, intanto non avrei mai immaginato di metterci 6 anni per fare Noi credevamo. Se qualcuno me l'avesse detto ci metterei 6 anni, avrei subito cambiato soggetto, che, perché insomma è dura, è difficile, ma il cinema però il cinema è così, è micidiale. Cioè, quando tu passi tanti anni, anche riuscire a tenere vivo un film dentro di te per tanto tempo, che non ti muoia dentro, insomma, no? Quindi tanto non avrei mai pensato di metterci tanto tempo. E poi non avrei mai pensato che di lì, perché poi tutto quel tempo, quindi significava appunto vivere con quel mondo, con quelle parole, con quella. E dopodiché era come un cantiere aperto e tutto il lavoro fatto nella lirica, le opere di Verdi. Quindi è chiaro che dopodiché abbiamo fatto le operette morali in teatro. Allora poi dalle operette morali in teatro cioè il passo al film è stato. Quindi però è come una cosa nata dietro l'altra. Allora non voglio dire che in un certo senso vogliamo continuare a seguire, però anche, cioè nel senso seguire un flusso, insomma ci lasciamo un po' trasportare. Quanto al fatto di, insomma è chiaro, abbiamo alle spalle un film che si è imposto come Il giovane favoloso, ma questo non può essere, cioè da un certo punto di vista, diciamo, ho 55 anni, ma sono, avendo cominciato molto giovane, sono troppo vecchio per avere il, cioè, tante volte mi sono trovato sulle montagne russe, come dire, dei successi, poi dei suoi rovesci e così via. Dobbiamo fare faremo dei passi in altre direzioni. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena. Con noi c'era Mario Martone. Ancora un saluto da Marta Cagnola.